La ninfa, a dita spalancate. Che infamia! Bloom, ero precoce. Gioventù, la fauna. Ho sacrificato al dio della foresta. I fiori che fioriscono in primavera. Era la stagione degli accoppiamenti. L'attrazione capillare è un fenomeno naturale. Lottie Clark, dai capelli di lino, le vidi fare la toilette serale attraverso le tendine mal chiuse, con il binocolo da teatro del povero babbo. La dissoluta mangiava erba come un animaletto. Si rotolò giù dal pendio al ponte di Rialto per stuzzicarmi con l'esuberanza dei suoi spiriti animali. Si arrampicò su per quell'albero forcuto e io, neanche un santo avrebbe resistito. Il demonio si impadronì di me. E poi? Ma forse visto qualcuno? Sanatino, vitello dal capo bianco, caccia fuori dal fogliame una testa ruminante dalle froge umide. Sanatino, grandi lacrime colanti dagli occhi prominenti, piagnucolosi. Me vedere. Bloom, solo per soddisfare un bisogno che io, con pathos, nessuna voleva saperne. Quando andavo per gonnelle, troppo brutto, non ci si volevano mettere. Lassù, a Bennhouth, attraverso i rododendri, passa una capretta, dalle poppe rigonfie, il codino tronco, lasciando cadere dietro di sé uvetta di Corinto. La capretta bela. Megegagegeg, capre pre. Bloom, senza cappello, accaldato. Coperto di lanugine di cardo e fuscelli d'erica. Regolarmente fidanzati. I casi mutano con le circostanze. Abbassa lo sguardo e fissa intensamente l'acqua. 32 al secondo a testa in giù. Incubo giornalistico. Elia con le vertigini. Precipitato dalla scogliera. Triste fine d'un impiegato della stamperia nazionale. Attraverso l'argentea silente aria estiva. Il manichino di Bloom, tutto legato come una mummia, si precipita giù, roteando dallo scoglio di Lion's Head nelle acque violacee che l'attendono. Il mani mommichino. Al largo della baia, tra i fari di Bailey e di Kish, l'Erin Kien naviga, con un pennacchio di fumo nero che si espande dalla ciminiera verso la terraferma. Il consigliere Nannetti, solo sul ponte, vestito di alpaga scura, viso giallo da sparviero, la mano nell'apertura del panciotto, declama: Quando la mia patria avrà il suo posto tra le nazioni della terra, allora, e non prima d'allora, il mio epitaffio sia scritto. Oh, Bloom, finito. Pff, la ninfa, altera. Noi immortali, come hai visto oggi? Non abbiamo quel posticino e neanche i peli. Siamo fredde come la pietra e siamo pure. Mangiamo luce elettrica. Inarca il corpo in un contorcimento lascivo, mettendosi l'indice in bocca. Parlato. Io ho sentito per di dietro. Come hai potuto dunque? Bloom, misurando la landa a grandi passi, con estrema umiliazione. Oh, sono stato proprio un porco. Anche dei clisteri ho somministrato, un terzo d'una pinta di quassia a cui si aggiungo una cucchiaiata di salgemma, su per il buco, con la siringa Hamilton Long, beniamina delle signore. La ninfa, in mia presenza. Il piumino della cipria arrossisce e fa una reverenza. E il resto? Bloom, abbattuto. Sì, peccavi. Ho reso omaggio su quell'altare vivente. Dove la schiena terminando cambia nome, con subitaneo fervore. Perché poi dovrebbe quella delicata mano ingioiellata e profumata, la mano che governa. Figure serpeggiano in meandri, con lento disegno silvano, intorno ai tronchi, tubando. La voce di Kitty, nel boschetto. Facci vedere uno di quei cuscinetti! La voce di Florrie. Toh! Un gallo cedrone svolazza pesantemente nel sottobosco. La voce di Lynch nel boschetto. Puah, caldo bollente. La voce di Zoe nel boschetto. Vien fuori da un posticino caldo. La voce di Virag, capo pelle rossa appennuto, con strisce azzurre sul viso, in tenuta di guerra e con una zagaglia in mano, traversa a grandi passi un canneto frusciante, pestando fagiole e ghiande. A bollore, a bollore! Occhio al toro seduto! Bloom mi sopraffà. L'impronta calda della sua forma calda. Basta che mi metta a sedere dove è stata una donna, specie sia cosce divaricate, come per concedere i favori estremi, specie se poi prima si è alzata per benino la falda della giacca di satinato bianco, così femminile, piena. Mi sento tutto pieno. La cascata, piena colma, pula fuca, pula fuca, pula fuca. I tassi. Shh, parla, sorella. La ninfa, senza occhi, con una veste bianca da monaca, cuffia e ampio soggolo con le ali, soavemente, con occhi sperduti. Convento, tranquilla, suora Agata, Monte Carmelo, le apparizioni di Knock e di Lourdes. Non più desideri. Reclina la testa sospirando. Solo l'etereo, dove il cremoso sognator gabbiano ondeggia sopra il lugubre oceano. Bloom si alza a metà. Gli salta un bottone da dietro i pantaloni. Il bottone. Bip! Due sgualdrine di combe passano ballando sotto la pioggia, inscialate, urlando con voce sorda. Le sgualdrine. Leopold ha perduto lo spillo alle mutande, non sapeva come fare per tenerlo su, per tenerlo su. Bloom, freddamente. Avete rotto l'incanto, goccia che fa traboccare il vaso. Se non ci fosse che l'etereo, dove andreste a finire tutte voi, postulanti e novizie? Timida ma liscia, come un asino che piscia. I tassi. Precipitando la stagnola delle loro foglie, con le braccia tutte pelle e ossa vecchie tremolanti. Deciduamente. La ninfa, lineamenti induriti, brancola nelle pieghe dell'abito. Sacrilegio! Attentare alla mia virtù! Una gran macchia umidiccia le appare sulla veste. Lordare la mia innocenza! Non sei degno di toccare neanche un lembo della veste d'una donna per bene! Stringe di nuovo a sé la veste. Aspetta, Satanasso, non canterai più canzoni d'amore. Amen, amen, amen, amen. Estrae uno stiletto e, rivestitasi del giacco di un cavaliere eletto tra 9 paladini, lo colpisce ai lombi. Necum! Bloom salta in piedi, le afferra una mano. Ehi, nebracada, gatto dalle 9 vite. Gioco leale, signorina mia, niente falcetto. La volpe l'uva, vero? Cos'hai contro di me per circondarti di filo spinato? Il crocefisso non è grosso abbastanza? Le afferra il velo. Ti ci vuole un santo abate? Oppure Brofi, il giardiniere zoppo? O la statua del portatore d'acqua senza zampillo? O la buona madre Alphonsus, volpona? La ninfa, con un urlo, fugge da lui senza velo. L'involucro di gesso le si fende scricchiolando. Una nube di fetore sfugge dalle fessure. Poli! Bloom le urla dietro. Come se voi stesse non ve ne prendeste il doppio, senza scosse e mucosità multiple da tutte le parti. Ho provato. La vostra forza è la nostra debolezza. E che tariffa ci fate per ogni monta? Che cosa ci date a pronta cassa? Affittate ballerini sulla riviera, ho letto. La ninfa emette alti lai fuggendo. Ho dietro di me 16 anni di lavoro da negri. E una giuria me li darebbe domani, 5 scellini per gli alimenti, eh? Corbella qualcun altro, non me. Annusa, foia, cipolle, rancido, zolfo, untume. La figura di Bella Cohen gli si erge davanti. Bella, ti ricorderai di me un'altra volta. Bloom, composto, la contempla. Passé, castrato travestito da agnello, denti lunghi e peli superflui. Una cipolla cruda ogni sera prima di andare a letto gioverebbe alla tua pelle. E fa qualche esercizio per diminuire la pappagorgia. I tuoi occhi sono svaporati come gli occhi di vetro della tua volpe impagliata. Sono delle stesse dimensioni degli altri lineamenti. Ecco tutto. Non sono un'elica Treviti io. Bella, sprezzante. Non hai pepe. Questo poi no. La sua vulva di Troia abbaia. Frubach! Blum, sprezzante. Per prima cosa pulisciti il medio disunghiato. Perché il sugo freddo del tuo bullo ti sgocciola giù dalla cresta di gallo. Prendi una manciata di fieno e pulisciti. Bella. Ti conosco, piazzista. Ghiozzo morto. Blum. Ti conosco, ruffianaccia. Rivendugliola di sifilide di scolo. Bella. Si volta verso la pianola. Chi di voi suonava la marcia funebre del Saul? Zoe. Io. Occupati dei cavoli tuoi. Spicca un salto fino alla pianola e con le braccia incrociate ci pesta sopra alcuni accordi. Passeggiatina del gatto attraverso le scorie. Dà un'occhiata dietro di sé. Eh? Chi fa l'amore coi miei tesorucci? Spicca un salto all'indietro verso il tavolo. Quel che è tuo è mio e quel che è mio è mio. Kitty sconcertata si fodera i denti con la stagnola. Bloom si accosta a Zoe. Bloom, gentilmente. Rendimi quella patata se non ti spiace. Zoe, un pegno, cosa finissima, sopra finissima. Blum, con sentimento. Non è nulla in sé, ma è una reliquia della povera mamma. Zoe, se dai una cosa e la rivuoi, Dio ti chiede dove l'hai. E se dici che non sai, all'inferno te ne andrai. Blum, ci sono connessi dei ricordi. Ci terrei ad averla. Steven, avere o non avere? Questo è il problema. Zoe, qua, alza un lembo della combinazione, mostrando la coscia nuda, e tira fuori la patata dall'orlo della calza. Chi nasconde sa dove trovare. Bella, accigliata. Qua, non siamo mica baracconi. E tu non mi sfasciare quel piano. Chi paga qui? Va verso la pianola. Steven si fruga in tasca e tirando fuori un biglietto di banca tenuto per un angolo, glielo porge. Steven, con cortesia esagerata. Questo borsellino di seta l'ho ricavato dall'orecchio di troia del pubblico. Signora, mi scusi, voglia permettermi. Accenna approssimativamente a Lynch e a Bloom. Siamo tutti in ballo, Kinch e Lynch. Danse bordel ut non notre età. Lynch, chiama dal focolare. Daedalus, dalle tu la mia benedizione. Steven, porge una moneta bella. Oro, ne ha. Bella, guarda il denaro, poi Steven, poi Zoe, Florrie e Kitty. Vuole tre ragazze? Vengono a costare 10 scellini qui. Steven, tutto contento. 100.000 scuse. Fruga ancora, tira fuori e le porge 2 corone. Mi permetta, brevi Manu. Ho la vista un tantino intorbidata. Bella va al tavolo a contare il denaro, mentre Steven parla tra sé a monosillabi. Zoe fa un balzo verso il tavolo. Kitty si china sul collo di Zoe. Lynch si alza, si raddrizza il berretto e, afferrando Kitty per la vita, aggiunge la sua testa al gruppo. Florrie fa sforzi penosi per alzarsi. Ai! Mi si è addormentato un piede. Saltella verso il tavolo. Bloom si accosta. Bella, Zoe, Kitty, Lynch, Bloom. Chiacchierini e litigiosi. Il signore, 10 scellini, paga per tre. Permetta un istante. Questo signore paga per sé. Chi tocca? Ai, bada chi pizzichi. La nottata o ne fai una sola? Chi è che? Lei è un bugiardo, scusi. Il signore ha pagato da signore fino all'ultimo soldo. Bere, è parecchio che sono suonate le 11. Steven. Alla pianola con un gesto d'orrore. Non si beve! Cosa? Le 11. Indovina la Grillo! Zoe, alzando la sottanina e cacciandosi nella calza una mezza sterlina piegata in due, guadagnata lavorando sodo col sudor della schiena. Lynch, sollevando Kitty dal tavolo. Vieni, Kitty, aspetta! Arraffa le 2 corone. Florrie, e io? Lynch, oppla! La solleva, la prende in braccio e la scarica sul sofà. Steven, cantò la volpe al dì ed il gallo fuggì. In cielo i batocchi davan 11 rintocchi. È ora che la sua animuccia dal cielo se ne vada a cuccia. Blum, Bloom, posatamente, mette una mezza sterlina sul tavolo tra Bella e Florrie. Ecco, mi permettano. Prende la banconota da una sterlina. 3 volte 10, siamo pari. Bella, ammirata. Sei un gran furbacchione, vecchio galletto. Ti bacerei. Zoe lo mostra a dito. Profondo come un pozzo. Lynch piega Kitty all'indietro sul sofà e la bacia. Bloom con la banconota si dirige verso Steven. Bloom, questo è suo. Steven, come sta la storia? Le distrae, ovvero il mendicante distratto. Si fruga di nuovo in tasca e tira fuori una manciata di monete. Un oggetto cade. È caduto qualcosa. Bloom, chirando, si raccoglie e porge una scatoletta di fiammiferi. Questa? Steven. Luciferi. Grazie. Bloom, tranquillamente. Forse sarebbe meglio che lei mi consegnasse quegli spiccioli. Sono più sicuri in mano mia. Perché pagare di più? Steven gli porge tutto quello che ha in tasca. Sì, giusto, prima di essere generoso. Bloom, vorrei, ma sarebbe poi più saggio. Conta. 1, 7, 11, 5, 6, 11. Non rispondo di quel che può aver perduto. Steven, perché suonano le 11? Proparossitano. Momento prima del prossimo, dice Lessing. Volpe sitibonda. Ride forte. Seppellisce la nonna. Probabile l'abbia uccisa. Bloom. Viene una sterlina, 6 scellini e 11 pence. Diciamo una sterlina e 7. Steven, non importa un accidente nulla. Bloom, no, ma Steven, va al tavolo. Sigaretta, per piacere. Lynch lancia una sigaretta dal sofà al tavolo. E così Georgina Johnson è morta e sposata. Una sigaretta appare sul tavolo. Steven la guarda. Miracolo, magia da salotto. Sposata. Accende un fiammifero, lo avvicina alla sigaretta con malinconia enigmatica. Lynch, osservandolo. Avresti più probabilità di accenderla se tu avvicinassi il fiammifero un po' di più? Steven avvicina il fiammifero all'occhio. Occhio di Lynch. Devo procurarmi gli occhiali. Rotti ieri. 16 anni fa. Distanza. L'occhio vede tutto piatto. Scossa il fiammifero, questo si spegne. Il cervello pensa. Vicino, lontano. Ineluttabile modalità del visibile. Si acciglia misteriosamente. Sfinge. La bestia che ha due dorsi a mezzanotte. Sposata. Zoe, è stato un viaggiatore di commercio che l'ha sposata e portata via con sé. Florrie annuisce. Mister Agnell di Londra. Steven. Agnello di Londra che togli i peccati di questo mondo. Lynch. Abbracciando Kitty sul sofà, salmodia con voce profonda. Dona nobis pacem. La sigaretta sfugge di tra le dita a Steven. Bloom la raccoglie e la butta nel caminetto. Basta fumare. Meglio mangiare qualcosa. Maledetto quel cane che mi è venuto tra i piedi. A Zoe, a nulla a portata di mano. Zoe, ha fame? Steven. Le tende la mano sorridendo e salmodia sull'aria del patto di sangue del crepuscolo degli dèi. Hangende Unger, fragende Frau, Machtuns alle caput. Zoe, tragicamente. Amleto, sono il trivello di tuo padre. Gli prende la mano. Bello dagli occhi blu. Ti leggerò la mano, accennando alla sua fronte. Né senno né rughe. Conta. 2, 3. Marte, vuol dire coraggio. Steven scuote la testa. Non sei mica un pulcino. Lynch, coraggio fulminante, il garzone che mai tremò né batté ciglio. A Zoe, chi t'ha insegnato la chiromanzia? Zoe si volta. Domandala ai coglioni che non ho. A Steven, te lo leggo in faccia. L'occhio, così. Aggrotta le ciglia, testa bassa. Lynch, ridendo, dà due sculaccioni a Kitty. Così, la ferula. 2 volte schiocca alta la ferula, la cassa della pianola si spalanca, ne salta fuori la piccola testa da misirizzi di padre Dolan, calva e rotonda.